E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 10:15, noi già siamo all'opera con le corrispondenze per le news di questa mattina, infatti siamo collegati con i compagni che stanno seguendo lo svolgimento del processo a seguito dei fatti di ieri alla Garbatella, lo sfratto violento che c'è stato ai danni di una signora che occupava appunto un appartamento Ater in via Massaia. E dunque, Gabriele, ciao, ci senti? Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Buongiorno. Allora, come vanno le cose lì a Piazzale Clodio? Allora sì, siamo qua a Piazzale Clodio dalle 9, c'è un piccolo presidio qua fuori, un altro po' di compagni e compagne stanno dentro e purtroppo però ovviamente il processo si sta svolgendo a porte chiuse e quindi non abbiamo particolari novità di come sta andando all'interno, se non che c'è stato appunto un'iniziale deposizione da parte delle forze di polizia. Adesso stanno interrogando i tre compagni fermati ieri e uno per volta, insomma, e speriamo di avere a breve notizie perché effettivamente è iniziato molto presto, insomma alle 9:15 già stavano dentro e siamo riusciti a vederli rapidamente questa mattina, insomma sembrava stessero abbastanza bene e evidentemente insomma la nottata è trascorsa abbastanza tranquillamente e quindi niente, adesso insomma siamo in attesa di riabbracciarli. Senti, ma si sa qualcosa rispetto ai capi di imputazione che hanno attinto? Allora, ieri un delirante comunicato sul sito della questura li accusava di lesioni e resistenza, quindi i capi di imputazione sono questi due. Ora ovviamente insomma mi piacerebbe star dentro anche per capire come pensano di giustificare un'accusa del genere, insomma considerando che appunto la pratica che viene usata insomma durante i picchetti antistratto e che penso che in tanti ci siamo trovati a fare, che non è propriamente insomma quella della difesa da uno sgombero, ma quella insomma di cercare di mediare, di interporsi sulle scale del palazzo, sulla porta per cercare di non far cedere la polizia. Una pratica che in genere insomma con la forza dei numeri riesce sempre a fungere da deterrente, invece ieri nonostante una presenza abbastanza fossa dei compagni, insomma c'erano una quindicina tra cittadini che erano andati là a sostenere la signora con i bambini che doveva essere estrattata, sia i compagni, niente insomma la polizia dopo 5 minuti ha deciso di far intervenire altre 5 volanti, tra l'altro chiamando anche un paio di volanti dei rinforzi, perché ovviamente a Garbatella non è che c'è tutta questa disponibilità di polizia e insomma si sono proprio incarogniti su uno sfratto del genere, che tra l'altro insomma al di là della vicenda in sé, di tutto quello che nasconde rispetto alla gestione dell'ATER, alla compravendita degli appartamenti, diciamo mi sento di poter dire che denuncia anche una magagna insomma tutta interna al quartiere di Garbatella. Sembra che questo proprietario è il padre di uno degli esponenti del circolo di azione giovani del quartiere, pochi giorni fa, ora ieri notte repentinamente tolto, era apparso proprio un commento sul sito del Guendalina Borghese, che è appunto il circolo del PDL locale, in cui si caldeggiava l'intervento della polizia insomma a sostegno dello sfratto, cioè per intervenire insomma su questo sfratto, quindi evidentemente anche la determinazione di ieri ha subito sicuramente anche delle pressioni quantomeno politiche insomma rispetto a quanto era accaduto. Ah, ecco, quindi insomma si definiscono anche un po' di più i contorni relativi ai personaggi che sono implicati insomma direttamente in questa vicenda, come al solito questa gente predica bene e razzola male alla meglio, insomma, nel senso che poi si fanno portavoce e paladini di chissà quali istanze di rinnovatrici anche nel campo della casa. Poi questa vicenda richiama invece veramente questioni, come dire, abbastanza tortuose, come quelle della buona uscita e via di seguito, no? Che rimandano chiaramente anche a una gestione abbastanza assurda dello stesso patrimonio pubblico. Rimando all'ATER, insomma. Sì, Diciamo che lentamente noi, insomma, appunto la giornata ieri è stata un susseguirsi di vicende allucinanti, e quindi appunto dallo sfratto all'esecuzione, cioè dal modo in cui è stato eseguito al fatto che effettivamente è stato eseguito, che anche quella, insomma, per fortuna una pratica che, insomma, negli ultimi anni eravamo riusciti in diversi quartieri della città a evitare che venisse praticata, insomma, data oramai la presenza di comitati antisfratto di qualsiasi forma praticamente in tutta la città, proprio per quello che dici te, proprio perché, insomma, l'emergenza abitativa è in una città del genere è sempre più ampia. Quindi è stato un accavallarsi di pessime notizie, appunto poi l'aggressione che c'è stata anche all'interno del commissariato il pomeriggio, il fatto che quando abbiamo provato a fare la conferenza stampa al Campidoglio, anche là la polizia ha deciso di negarcela, dicendo che la Digo è presente in piazza, dicendo che non era aggiornata, non era il caso di presentarsi in quella piazza, che l'aria stava cambiando, insomma, forse anche loro presi dagli slogan dell'ultimo periodo. E quindi niente, insomma, appunto l'accavallarsi di tutte queste notizie ci ha lasciato spiazzati, perché comunque non sembrava veramente, non so, su Scherzi a parte, dentro un film, una cosa allucinante. E in più aggiungo che, appunto, a tutto il problema dell'emergenza c'è anche il fatto che ieri la richiesta che, appunto, si faceva attraverso il picchetto era quella di una presenza dell'ATER, perché tutto questo ha generato un precedente, diciamo, nel senso che da oggi in poi tutti quegli assegnatari di casa che hanno rivenduto il proprio appartamento dell'ATER a un'altra persona potranno fare tranquillamente di nuovo causa, vincere il danno alla beffa, solo, diciamo, hanno già preso 80.000-90.000 euro per il loro appartamento, ma in più si ritrovano assegnato di nuovo un appartamento dopo esserselo venduto, insomma, quindi... Senti Gabriele, chiaramente, insomma, tutti si sono resi conto, voi siete stati i primi a sottolinearlo, di una gestione, diciamo così, dell'ordine pubblico ieri a Garbatella, quantomeno, insomma, un po' sopra le righe, nel senso che sicuramente qualcosa, non so se dire se sia sfuggito di mano, sicuramente anche voi lo avete riconosciuto. Nelle ultime occasioni, insomma, questo tipo di recrudescenza, questo tipo di atteggiamento non l'avevate comunque riscontrato. C'è da dire però che nell'ultimo anno sono usciti da poco, insomma, i dati che ogni anno l'Unione Inquilini emette rispetto agli sfratti. Oltre al fatto che sono aumentati in modo vertiginoso gli sfratti per morosità, su 6.710 sentenze praticamente circa il 75% riguardano proprio sfratti per morosità, quindi parliamo di cifre altissime, ma soprattutto sono aumentate in modo molto molto forte gli sfratti all'interno dei quali si richiede la presenza, l'ausilio delle forze dell'ordine, in cui l'ufficiale giudiziario presenta la richiesta per essere sostenuto dalle forze dell'ordine. Quindi, diciamo, c'è un tipo di atteggiamento. Ieri alla Garbatella, insomma, è successo, lo avete riscontrato chiaramente, però ecco, è evidentemente il portato di una gestione che è stata decisa evidentemente nei piani alti e che riguarda l'intera città, insomma. Certo. Beh sì, diciamo, sicuramente un po' questo, sicuramente il fatto che appunto, come dicevo prima, insomma, è una città che nonostante chi la governa e l'amministra, insomma, mantiene ancora degli anticorpi, e quindi il fatto che negli anni comunque, come insomma si sa, appunto spesso lo sfratto non avviene nell'immediato, ma insomma appunto la presenza dei picchetti garantisce anche una sorta di rinvio. Evidentemente, appunto, il lavoro fatto negli anni che ha garantito che comunque molti sfratti venissero rinviati, a un certo punto ha fatto storci il naso a chi di dovere, e da adesso in poi ovviamente, appunto, la presenza delle forze dell'ordine sarà quantomeno scontata, nel senso che, appunto, dopo il quinto o sesto accesso rinviato cominciano, insomma, è abbastanza scontato che poi richiedano la presenza delle forze dell'ordine. Quella di ieri, per esempio, era, diciamo, una pratica che andava avanti da circa 2 anni, ci trovavamo più o meno al 15° accesso e nonostante anche le altre volte insomma una pattuglia del commissariato si fosse presentata, ma insomma appunto la determinazione di chi stava là l'aveva sempre impedito. Ieri proprio invece è successo insomma quello che abbiamo già raccontato da questi microfoni ieri. Già, senti, un'ultima cosa molto importante, perché poi ieri evidentemente insomma voi avete subito cercato di informare l'intero quartiere di quanto accaduto, per chi non se ne fosse accorto c'è stato anche un volantinaggio serale. Qual è stata la risposta insomma? Beh, appunto purtroppo sappiamo le che poi Garbadella è un quartiere insomma dove la solidarietà è anche abbastanza facile, forte diciamo. Il susseguirsi dei vicende ci ha costretti purtroppo a un volantinaggio in tarda serata, quindi diciamo tarda serata insomma saranno state le 7, 7 e mezza, quindi ovviamente le strade non erano più popolate come prima, però insomma anche la conformazione del quartiere ci ha dato modo di megafonare negli ampi cortili e lotti, e insomma la bellezza di vedere un sacco di gente affacciata che solidarizzava con noi e che tra l'altro era già ben informata tranne pochi di quanto era accaduto, perché poi appunto insomma le voci, è ancora un quartiere insomma in cui si racconta il passaparola funziona, quindi tanti e tante già sapevano di quanto era successo e ci hanno chiesto insomma quali sarebbero stati i nuovi passi, le nuove attivazioni che avremmo fatto, e insomma appunto abbiamo invitato all'una alla conferenza stampa oggi in municipio e probabilmente insomma poi avremo modo di riraccontarlo tra domani e dopodomani. Credo che insomma faremo comunque un corteo per le strade di Garbadella per ribadire insomma che la nostra presenza ai picchetti a Sistratto continuerà, e quello che è successo ieri da quel commissariato sicuramente non cadrà nel vuoto insomma. Senti, ci sentiamo più tardi allora Gabriele per darci qualche aggiornamento su Piazzale Clodio. Pure qualcuno dei liberati. Perfetto, ciao, grazie, a dopo. Ciao. Living is easy, loving is free.